ad alta voce. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Traduzione di Ettore Capriolo. Dopo pochi giorni, la spedizione per l'Eldorado entrò nella paziente foresta, che si chiuse su di essa come il mare su un tuffatore. Molto tempo dopo giunse notizia che tutti gli asini erano morti. Io non so niente di ciò che accadde agli animali meno preziosi. Trovarono sicuramente, come tutti noi, ciò che meritavano. Non cercai di informarmi. Ero troppo eccitato dalla prospettiva di incontrare prestissimo Kurz. Ma quando dico prestissimo, lo dico in senso relativo. Passarono esattamente 2 mesi dal giorno in cui lasciammo l'insenatura a quello in cui arrivammo alla sponda sotto la stazione di Kurz. Risalire quel fiume era come viaggiare indietro nel tempo, sino ai più lontani albori del mondo, quando la vegetazione cresceva sfrenata sulla terra e i grandi alberi erano re. Un corso d'acqua deserto, un grande silenzio e una foresta impenetrabile. L'aria era calda, densa, opprimente, stagnante. Non c'era gioia nello splendore del sole. I lunghi tratti di quel corso d'acqua procedevano deserti nel buio di ombreggiate lontananze. Sulle secche argentee, ippopotami e alligatori prendevano il sole gli uni accanto agli altri. Le acque, allargandosi, scorrevano tra una moltitudine di isole boscose. Su quel fiume perdevi l'orientamento come in un deserto e incappavi per giornate intere nei bassi fondi alla ricerca del canale, finché non arrivavi a crederti stregato e tagliato fuori da tutto ciò che un tempo avevi conosciuto, da qualche parte, molto lontano, forse in un'altra esistenza. C'erano momenti in cui ti tornava in mente il passato, come succede a volte quando non hai un attimo libero da dedicare a te stesso, ma assumeva la forma di un sogno irrequieto e rumoroso, ricordato con stupore tra le realtà soffocanti di quello strano mondo di piante e acqua e silenzio. Ma questa immobilità non assomigliava per niente alla pace. Era l'immobilità di una forza spietata che stava rimuginando un impenetrabile progetto. Ti guardava con aria vendicativa. Col tempo mi ci abituai. Non la vedevo più. Non ne avevo il tempo. Dovevo cercare in continuazione il canale. Dovevo distinguere, guidato soprattutto dall'ispirazione, i segni dei banchi di sabbia sommersi. Stavo allerta cercando i massi sprofondati. Imparavo a serrare i denti con prontezza prima che mi mancasse il cuore quando rasentavo per un pelo qualche vecchio, subdolo, infernale tronco d'albero che avrebbe strappato la vita a quel battello di latta e affogato tutti i pellegrini. Dovevo tener d'occhio le tracce di legno morto che avremmo potuto tagliare di notte per generare vapore l'indomani. E quando dovete badare a cose di questo genere, ai piccoli incidenti che avvengono alla superficie, la realtà, vi dico, si affievolisce. La verità interna si nasconde. Per fortuna, per fortuna. Ma io la sentivo ugualmente. Sentivo spesso la sua quiete misteriosa che guardava intenta i miei trucchetti, come guarda voi altri quando vi esibite sulle funi per... quant'è che vi danno? Mezza corona per ogni capriola? Cerca di essere un po' più garbato, Marlowe, borbottò una voce, e capii che oltre a me era rimasto sveglio almeno un altro ascoltatore. Chiedo scusa, disse Marlowe, dimenticavo l'angoscia, che è il resto del compenso. E poi, che importanza ha il compenso se il numero è fatto bene? Voi, i vostri, li fate benissimo, e io non feci male il mio, dal momento che riuscii a non affondare con quel battello lì durante quel primo viaggio. Mi stupisce ancora adesso. Immaginate un uomo che con gli occhi bendati si metta a guidare un carro su una brutta strada. Sudai e rabbrividii parecchio durante questa impresa, ve lo assicuro. Dopotutto, per un marinaio, sfregare la carena della nave che dovrebbe restare sempre a galla sotto la sua responsabilità è il più imperdonabile dei peccati. Nessuno verrà mai a saperlo, ma voi, la botta, non ve la scordate di certo, no? È un vero colpo al cuore. E ve la ricordate, ve la sognate, e anni dopo vi svegliate di notte e ci ripensate, e sentite caldo e freddo in tutto il corpo. Non arrivo a dire che il battello rimase continuamente a galla. Più di una volta ci toccò procedere per un po' a guado, con 20 cannibali che sguazzavano intorno a noi per darci una spinta. Eh sì, ne avevamo arruolati alcuni come ciurma durante il viaggio. Brava gente i cannibali, a casa loro. Erano uomini con cui si poteva lavorare e io provo gratitudine per loro. E poi, in fin dei conti, non si mangiarono a vicenda sotto i miei occhi. Si erano portati appresso una riserva di carne di ippopotamo che finì per marcire e che col suo fetore mi riempì le narici del mistero della giungla. Bah, lo sento ancora. Avevo a bordo il direttore e 3 o 4 pellegrini con i loro bastoni, perfettamente equipaggiati, insomma. Ogni tanto ci imbattevamo in una stazione sulla riva, aggrappata alle gonne dell'ignoto, e i bianchi che uscivano di corsa da qualche cadente tugurio con grandi gesti di gioia e di sorpresa e di benvenuto parevano molto strani. Si aveva l'impressione che fossero prigionieri di qualche incantesimo. Risonava un po' nell'aria la parola avorio e noi ci reimmergevamo nel silenzio su tratti deserti per anse tranquille tra le alte pareti del nostro serpeggiante cammino che echeggiavano in suoni sordi il battito pesante della ruota poppiera. Alberi, alberi, milioni di alberi imponenti, immensi, che s'arrampicavano altissimi e ai loro piedi, abbrancato agli argini per difendersi dal fiume, quel sudicio battello si trascinava come un pigro scarafaggio che striscia sul pavimento di un nobile porticato. Ti sentivi piccolissimo e totalmente smarrito, eppure non era solo una sensazione sconfortante. Dopotutto, anche se noi eravamo piccoli, quel lurido scarafaggio continuava a strisciare ed era esattamente ciò che volevamo che facesse. Dove i pellegrini immaginavano che stesse strisciando, io lo ignoro. Verso un luogo in cui si aspettavano d'arraffare qualche cosa, scommetto. Per me, strisciava verso Kurz, esclusivamente. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, prendemmo a strisciare molto adagio. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi e si chiudevano alle nostre spalle come se la foresta avesse tranquillamente attraversato le acque per sbarrare la strada del nostro ritorno. Ci immergevamo sempre più a fondo nel cuore delle tenebre e c'era un gran silenzio lì. Di notte, a volte, il rullio dei tamburi dietro la cortina di alberi risaliva il fiume e rimaneva costante, anche se flebile, come sospeso nell'aria, in alto, sopra le nostre teste, sino allo spuntare del giorno. Se annunciasse guerra, pace o preghiera, noi non potevamo saperlo. Le albe erano precedute dal calare di un gelido silenzio. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lentamente, lo spezzarsi improvviso di un ramoscello ti faceva sussultare. Stavamo vagando su una terra preistorica, su una terra che aveva ancora l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Potevamo immaginare di essere i primi uomini che prendevano possesso di una esecranda eredità da soggiogare al prezzo di un tormento profondo e di fatiche eccessive. Ma tutto a un tratto, mentre arrancavamo per superare un'ansa, ecco una fuggevole visione di muri di giunco, di tetti d'erba appuntiti, un'esplosione di grida, un turbinio di arti neri, una massa di mani che battevano, di piedi che pestavano, di corpi che ondeggiavano, di occhi che roteavano sotto l'opprimente e immobile fogliame. Il battello arrancava lento, costeggiando una nera e incomprensibile frenesia. L'uomo preistorico ci malediceva? Ci pregava, ci dava il benvenuto, come si faceva a saperlo? Eravamo esclusi dalla comprensione di ciò che avevamo attorno, scivolavamo via come fantasmi, perplessi e segretamente spaventati, come un uomo sano di mente davanti a un'esplosione d'entusiasmo in un manicomio. Non potevamo capire, perché eravamo troppo lontani e non ricordavamo più nulla. Perché stavamo viaggiando nella notte dei primi tempi, di quei tempi che sono scomparsi e hanno lasciato ben pochi segni e nessun ricordo. La terra qui sembrava ultraterrena. Noi siamo abituati a vedere la forma incatenata di un mostro sopraffatto, ma lì potevi vedere qualcosa di mostruoso e di libero. Era terrificante e gli uomini erano... No, non erano inumani. E beh, voi sapete che è proprio questo il lato peggiore della cosa. Il sospetto che non fossero inumani si affacciava poco a poco. Quelli gridavano e saltavano e giravano su se stessi e facevano orribili smorfie, ma ciò che ti faceva rabbrividire era proprio il pensiero che appartenessero all'umanità, come voi. Il pensiero di una tua remota parentela con questo frastuono selvaggio e appassionato. Brutto, sì, era parecchio brutto, ma se eri abbastanza uomo... Dovevi confessare a te stesso che la sincerità spaventosa di quel rumore procurava in te un seppur vaghissimo riscontro, un confuso sospetto che racchiudesse un significato che tu, così lontano dalla notte dei tempi, potevi tuttavia comprendere. E perché no? La mente dell'uomo è capace di tutto, perché contiene tutto, il passato come il futuro. E cosa c'era lì, in fin dei conti? Gioia, paura, dolore, devozione, valore, collera, chi può dirlo, ma anche verità, verità spogliata del manto del tempo. Padronissimo lo sciocco di restare a bocca aperta e di rabbrividire, ma l'uomo sa e può continuare a guardare senza battere ciglio. E bisogna però che sia uomo almeno quanto quelli sulla riva. Deve affrontare questa verità con la sua vera essenza, con la sua forza innata. E i principi non servono. Le acquisizioni, i vestiti, gli abiti eleganti sono tutti cenci che volerebbero via al primo scrollone, no? Hai bisogno di una convinzione solida. C'è un richiamo per me in quel bailamme diabolico? Benissimo, lo sento, lo ammetto, ma ho anch'io una voce. E nel bene o nel male, mio è il discorso che nessuno può zittire. Naturalmente uno sciocco, con la sua semplice paura e i suoi bei sentimenti, è sempre al sicuro. Di chi è quel grugnito? Vi state chiedendo se scesi a terra a gridare e ballare? Beh no, non lo feci. Bei sentimenti, dite? Ma all'inferno i bei sentimenti. Io non ne avevo il tempo. Dovevo tener d'occhio il timoniere e aggirare quei tronchi sommersi e portare avanti di riffa o di raffa quel macinino. E in queste cose c'era quel tanto di verità superficiale che bastava a salvare anche un uomo più saggio. E nel frattempo dovevo badare a quel selvaggio del mio fuochista. Era una creatura ammaestrata. Sapeva tenere accesa una caldaia verticale. Sì, stava lì, sotto di me. E parola d'onore, guardarlo era edificante come vedere un cane con un paio di pantaloni da clown e un cappello piumato che cammina sulle zampe posteriori. Pochi mesi d'addestramento erano stati sufficienti per questo individuo di prim'ordine. Sbirciava il manometro del vapore e l'indicatore del livello dell'acqua, sforzandosi palesemente di mostrarsi intrepido. E aveva anche i denti affilati, quel povero diavolo, e la lana della zucca rasata in maniera bizzarra e 3 cicatrici ornamentali su ogni guancia. Avrebbe dovuto batter le mani e pestare i piedi sull'argine. E invece stava lavorando con accanimento, schiavo di qualche stregoneria misteriosa, pieno di conoscenze avanzate. Era utile perché lo avevano addestrato. E ciò che sapeva era questo, che se in quella cosa trasparente fosse sparita l'acqua, lo spirito maligno che stava nella caldaia si sarebbe infuriato per via dell'incontenibilità della propria sete e si sarebbe vendicato in una maniera tremenda. Perciò sudava e alimentava il fuoco e guardava spaventato il vetro, con un amuleto improvvisato di stracci legato al braccio e un osso levigato delle dimensioni di un orologio conficcato di piatto nel labbro inferiore, mentre gli argini boscosi scorrevano via lenti e quella breve parentesi di baccano veniva lasciata alle nostre spalle e riprendevamo le miglia interminabili di silenzio e continuavamo a strisciare verso Kurz. Ma i tronchi erano fitti. L'acqua infida e poco profonda e la caldaia pareva davvero contenere un demone imbronciato. Di conseguenza, né il fuochista né io avevamo il tempo di soffermarci sui nostri raccapriccianti pensieri. 50 miglia circa oltre la stazione interna, ci imbattemmo in una capanna di giunchi, con un'asta inclinata e malinconica, i brandelli irriconoscibili della bandiera che vi aveva sventolato e una pila di legna da ardere sormontata da una piatta assicella con una scritta a matita quasi del tutto illeggibile. Una volta decifrata diceva: «Legna per voi, sbrigatevi, avvicinatevi con cautela». C'era anche una firma, ma indecifrabile, sicuramente non Kurz, una parola molto più lunga. Sbrigarsi? E dove? Su per il fiume? Avvicinarsi con cautela? Noi non l'avevamo fatto. Ma l'avvertimento non poteva riferirsi a quel luogo dove si poteva trovare il messaggio solo dopo essersi avvicinati. Era più in su che qualcosa non andava bene. Ma cosa? E sino a che punto? Era questo il problema. Commentammo in termini ostili l'imbecillità di quel messaggio telegrafico. La boscaglia intorno non ci diceva nulla e non ci permetteva neanche di vedere molto più in là. Una lacera tendina di spigato rosso penzolava sulla soglia della capanna e ci sbatteva triste sulla faccia. L'abitazione era stata smontata, ma era evidente che non molto tempo prima vi aveva vissuto un bianco. Rimaneva una tavola rudimentale, un'asse su due montanti, un mucchio di spazzatura in un angolo buio e vicino alla porta un libro che raccattai. Non aveva più la copertina e le pagine erano state sfogliate sino a diventare quasi inconsistenti ed estremamente sporche, ma il dorso era stato amorevolmente rammendato con un filo di cotone bianco che pareva ancora pulito. Fu una scoperta straordinaria. Il titolo era «Indagini su alcuni aspetti dell'arte marinaresca» di un certo Towser o Towson, un nome del genere, un capitano della Marina Reale. L'argomento sembrava promettere una lettura piuttosto noiosa, con grafici illustrativi e orrende tavole numeriche, e la copia risaliva a 60 anni prima. Maneggiai questo sorprendente oggetto d'antiquariato con la massima delicatezza per evitare che mi si dissolvesse tra le mani. All'interno Towson o Towser indagava seriamente sulla resistenza alla rottura delle catene e dei paranchi delle navi e su altre faccende del genere. Insomma, non era un libro molto avvincente, ma si coglievano a prima vista una serietà di intenti, uno schietto interesse per il modo corretto di affrontare un lavoro e di conseguenza quelle umili pagine, pensate tanti anni prima, si rivelavano luminose di una luce non soltanto professionale. Quel vecchio e onesto marinaio, con i suoi discorsi sulle catene e i paranchi, mi fece dimenticare la giungla e i pellegrini, dandomi la sensazione squisita di essermi imbattuto in qualcosa di reale. Il fatto che un libro simile fosse lì era già meraviglioso, ma ancor più stupefacenti erano gli appunti a matita sui margini che si riferivano chiaramente al testo. Io non riuscivo a credere ai miei occhi. Erano in codice. Ma sì, sembravano scritti in codice. È curioso. Curioso che un uomo si fosse portato appresso un libro del genere in un posto così fuori del mondo e se lo fosse studiato e avesse preso appunti per di più in codice. Proprio un bel mistero. Già da un po' di tempo percepivo confusamente un rumore inquietante e quando alzai gli occhi vidi che la pila di legna era sparita e che il direttore, con l'aiuto di tutti i pellegrini insieme, mi stava gridando qualche cosa dalla sponda del fiume. Mi cacciai il libro in tasca e vi assicuro che smettere di leggerlo fu come staccarmi a forza dal riparo di una vecchia e solida amicizia. Rimisi in moto il nostro zoppicante macinino. «Deve essere quel miserabile mercante, quell'intruso!» esclamò allora il direttore, voltandosi a guardare con espressione malevola il luogo che avevamo lasciato. «Credo che sia inglese», dissi io. «Ah, ma questo non lo salverà dai guai se non starà attento», borbottò in risposta il direttore minaccioso. Replicai con finta ingenuità che in questo mondo nessuno è mai al sicuro dai guai. Ora la corrente era più rapida. Il battello pareva allo stremo. La ruota poppiera si muoveva languida e io mi sorpresi a tendere l'orecchio in punta di piedi per cogliere un battito del motore dopo l'altro, perché, se devo essere sincero, m'aspettavo che quello sciagurato congegno mollasse da un momento all'altro. Era come osservare gli ultimi guizzi di una vita. Eppure strisciavamo sempre più avanti. A volte sceglievo un albero appena oltre per calcolare di quanto ci stavamo avvicinando a corsa, ma lo perdevo invariabilmente di vista prima che arrivassimo alla sua altezza. Tenere per tanto tempo gli occhi fissi su un unico oggetto è troppo per la pazienza umana. Il direttore sfoggiava una bella rassegnazione. Io mi cruciavo e mi arrabbiavo e cercavo di decidere se avrei o no parlato chiaro con Kurz. Ma prima di poter giungere a una conclusione, mi venne in mente che parlare o stare zitto, anzi fare qualsiasi cosa, sarebbe stato assolutamente futile. Che importanza aveva ciò che uno sapeva o ignorava? Che importanza aveva chi fosse il direttore? Capita a volte di avere queste intuizioni improvvise. Gli aspetti essenziali di quella faccenda giacevano in profondità sotto la superficie, oltre la mia portata e oltre il mio potere di ingerenza. Verso la sera del secondo giorno valutammo di essere a circa 8 miglia dalla stazione di Kurz. Io avrei voluto proseguire, ma il direttore assunse un'espressione solenne e mi disse che lassù la navigazione era così pericolosa da consigliare, poiché il sole era già molto basso, di aspettare il mattino dopo. Fece anche notare che, se volevamo seguire il consiglio di accostarci con cautela, ci conveniva farlo di giorno, non al crepuscolo o al buio. E tutto questo era abbastanza ragionevole. 8 miglia volevano dire per noi 3 ore, e per di più vedevo già delle increspature sospette al limite di quel tratto di fiume. Ero tuttavia indicibilmente seccato da questo rinvio, anche se non aveva senso, perché dopo tutto una notte in più non poteva avere molta importanza dopo tanti mesi. Avendo legna in abbondanza ed essendo cautela la parola d'ordine, diedi fondo all'ancora in mezzo al fiume. Quel tratto era stretto e diritto, con sponde alte come un terrapieno della ferrovia. L'oscurità vi si insinuò parecchio tempo prima che fosse calato il sole. La corrente fluiva calma e rapida, ma sugli argini incombeva una muta immobilità. Gli alberi vivi, legati assieme dai rampicanti, e ogni vivo cespuglio del sottobosco parevano mutati in pietra, sino al ramoscello più sottile e alla foglia più leggera. Ma non si trattava di sonno. Sembrava qualcosa di innaturale, come uno stato di catalessi, e non si udiva neanche il più fievole dei suoni. Tu guardavi stupefatto e cominciavi a sospettare di essere diventato sordo. Poi piombava improvvisa la notte e ti rendeva anche cieco. Verso le 3 del mattino spiccò un salto un grosso pesce e io sussultai come per un colpo d'arma da fuoco. Quando si levò il sole c'era una nebbia bianca, calda e appiccicosa e più accecante della notte. Non si spostava e non avanzava, se ne stava lì, tutto attorno, come qualcosa di solido. Tra le 8 e le 9 si alzò come si alza una serranda, e potemmo così vedere la torreggiante moltitudine degli alberi, l'immensa giungla aggrovigliata su cui incombeva la piccola palla sfavillante del sole, e tutto assolutamente immobile. E a questo punto la serranda bianca tornò ad abbassarsi agevolmente, come se scivolasse su guide ben oliate. Ordinai di mollare la catena, che già stavamo issando a bordo. Prima che finisse di scorrere, con un sordo tintinnio, un grido fortissimo, di desolazione infinita, si levò adagio nell'aria opaca. Cessò. Uno strepito lamentoso, modulato in dissonanze selvagge, ci riempì gli orecchi. Il fatto che fosse del tutto inaspettato mi fece rizzare i capelli sotto il berretto. Io non so che impressione fece agli altri. A me parve che fosse stata la nebbia stessa a gridare, tanto si era alzato all'improvviso e in apparenza da ogni parte nello stesso momento quel tumultuoso e lugubre frastuono. Culminò in una precipitosa esplosione di urla eccessive, in maniera quasi intollerabile, che si interruppe di botto, lasciandoci irrigiditi in tutta una gamma di posizioni assurde e con le orecchie ostinatamente tese ad ascoltare il silenzio, quasi altrettanto spaventoso ed eccessivo. «Dio, Dio, cosa significa?» balbettò accanto a me uno dei pellegrini, un ometto grasso con i capelli biondo sabbia e le basette rosse, che indossava degli stivaletti e un pigiama rosa infilato nei calzini. Altri due rimasero per un minuto buono a bocca aperta, dopodiché corsero nella piccola cabina e immediatamente dopo si precipitarono fuori gettando intorno occhiate spaventate, con in mano i Winchester pronti a sparare. Vedevamo soltanto il battello su cui eravamo, con i contorni sfocati come se fosse stato in procinto di dissolversi, e una brumosa striscia d'acqua larga non più di mezzo metro tutt'attorno. Niente altro. Il resto del mondo, per quanto concerneva i nostri occhi e le nostre orecchie, aveva cessato di esistere, letteralmente cessato di esistere, sparito, scomparso, spazzato via, senza lasciare né un sussurro né un'ombra.